radio. Pero bueno, cielo. Vai in USB, dai, tutti in USB, centra a me perfetto. Tutti qua 27 165, e capirete il culto dei giubbotti. Ora Prova a 50 tu, perché io ti sento male. Oh Gianmarie, se quegli apparecchi normali, con la sintonia a fine devi centrare. Vedi, adesso sono a 50 io, però ti sento male, non te. E che c'è la differenza, la mia o la tua, c'è la differenza. E a poco comunque l'ho preciso il tuo. Perché io l'ho reparato, sono sempre centrato al 100%, Gianmarì. Io sono a punto 50, 27.165.50 sono io. A parchetto io l'ascolto bene qua, così. Ma perfetto, lo sento a parchetto, come se fosse la M. Sto usando quello preciso al tuo. Aspetta un attimo, Giovanni, che Natalino ha fatto un attimo di bianco, che stava venendo il frattello, devo dire, la, quella questione di cosa di Birillo. Comunque c'è anche Birillo per questo. Avanti Birillo per Gio Maria. Via, buonasera, saluto tutti, qua. Ah, Beni, buonasera. E beh, in giro sei o a casa sei, basta il sesto, sempre facendo, non bisogna fermarci mai, chi si ferma è perduto, benissimo. È importante che ci sia la salute. Allora, se si ferma l'erba cresce, meglio voglio, lo sai. Poi, mamma mia, Filimini la giocata di campagna, azzurra, non ti dico niente. Ma l'hanno tagliato da poco, almeno 15 giorni. Non ci stavo scendendo, sono sceso stasera. Ma si butta in mano in capo. Ha fatto a tagliarmi tutta l'erba, proprio un po' di mozzo zappacchi, ve ne un mese. E io ho tagliato la settimana scorsa, non si fu la sola, se non lo guarda. E forse se ti prendeva, poi da me cresci, cresce una cosa, e io sono una falata proprio, e senti umido lì, perché e sta sempre crescendo, è sempre crescendo, ma in Dio cresce una cosa incredibile. Ma adesso fino alla settimana intanto non posso fare niente, vuol dire che mi attrinzerò alla settimana prossima, prima taglio e dopo molto zappo. Riprende, ci va benissimo. Ehi, a capo, è quello che devi fare. Se cresce diventa una foresta. Riprendi, ma... Ehi, vedi, capo a capo, e allora, vedi, sempre dalle neve, sì, dai. Stiamo mettendo a posto un pochettino qua dentro che stava diventando così animale. Kappa, kappa. Questi spagnoli che sono tutte queste cose che mi dici di casa con lui, non so, guarda. Vedi, ci hanno coperto leggermente. Ehi, già lo so, ma il corino non sta facendo, già lo sa. Ehi, già lo so. Niente, cosa mi va? Purtroppo venì. Cazzo, ma io ce lo si andare più, no, cazzo, fa che? Bisogna tenere due o tre classi a cose, cazzo, che domani lo si andare, cazzo. Attento, compagneros, QSO local, QSO local, compagneros. Mi pare più di chissà che bene, cosa gli dici? Credo. Ehi, in FM, se non è FM, licenza, ancora più fuori, provo un po' spagnolo. No, è di Carranza Zo, Burundi. Da Burundi, assolutamente. Ma la sua che è pittà. Dove c'è la preparazione, vuol dire? Ehi, dove questa è la preparazione, bene, io vi farei venire le voci, niente, non penso. Minimo, se non tiro, posso più quanti, E loro ce lo possono permettere, loro possono usare di più di lui, mi sembra. Per cui quando attaccano, ma sono maledetti, e poi se c'è la propagazione buona, a noi ci coprono, Infatti, già maledetti. Per carità, ragazzi, nella buccia era perché sono piccolo e nero, gabbè, bene, non lo so io. Noi non li possiamo fare quello che fanno loro. No, assolutamente, non lo possiamo fare no, loro hanno leggi diverse da noi, capito? Quello è il punto, capito? Però, vuol dire, si acciappa l'inganno. Arrivato a questo punto, come ci dici? Basta la legge, te l'ho fatto l'inganno. In Italia va così. Ecco quello che deve fare. Per carità. Vediamo un po' se Natale ha terminato il QSO casalingo. Ah, ti Natale, ci sei? Stai ancora il rapporto con fratello. Vedi, aiuto, canta! Io non già mi sto ascoltando, che sto facendo? Ascoltate voi. D'accordo, fa che allora attacca, vai. Oh, cazzo, è tutta un'altra persona, mi sembra, cazzo, in banda, fa che... è tutta un'altra cosa in banda, Cioè, sentivo più bene a te che a Natalino. Addirittura. Eia, infatti, perché poi c'è la differenza da un apparecchio all'altro. C'è la differenza, capito? Mentre invece se sono precisi le apparecchiature allora va bene, ma se no da un all'altro c'è sempre qualche. Non dico di essere, ma 4-5 in più da uno all'altro c'è, vai. Cappa, è vero. Poi da una radio all'altra penso che cambi qualcosa, no, Giammarì? Che senso dicendo? Cambia, capito? C'è la differenza da un apparecchio all'altro, c'è, capito? Specialmente quando c'è apparecchi diversi da uno all'altro, capito? Mentre se sono precisi, allora... se non sono toccati e rimangono sempre perfetti, capito? Ma se no variano anche quelli, capito? Cappa, Non intende come ti arrivi? Allucinante, venne uno e è arrivato quasi a 9.30. Perché? Arrivano forti, per non dire la propagazione buona, capito? Non dire la propagazione buona per cui... a noi ci ignorano come niente, ci coprono, ma alla torta, perché loro usano le potenze diverse da noi, capito? Noi più di 5 watt lo possiamo usare, anzi, nemmeno 5 watt, non puoi immaginare, ma loro ne usano parecchie, e anche le direttive usano molto loro, perché ci sono leggi diverse, capito? Mentre noi non li possiamo usare. Infatti. E quello è il problema, capito? Loro possono usare, noi non possiamo usare, ma non mi sembra neanche giusto, E vabbè, ma ogni stato ha le sue regole, per cui, sai com'è, e certe volte bisogna astenersi anche alle regole, purtroppo è così. Magari non siamo tutti uguali, ma quello che se ne frega e va e attacca e quello la faccenda, capito? E così che quando si può fare attaccare bisogna attaccare, quando no bisogna rimanere in sistema giusto, capito? Così sentivo Giovanni. Purtroppo così, non ce lo permetto e dobbiamo stare alle leggi che abbiamo noi, anche sbagliato, giusto che siano, purtroppo funziona così. Eia, eia, hola, hola, hola, hola, già sta andando bene, perché qui c'è delle stazionali, un attimo... Hola, ma che? Dimmi, Giovanni. Com'è la radio, buona? Pulitissima, perfetta, al centro. Ok. Bene, bene, adatta, aiuto. Niente a fare. Grazie a lei, tu, oggi se per il legislatore, chissà cosa è mi rende la vacca. O è matta con matta? A vero, Giovanni, è matta con matta, Sia uscita a fare commissione. Oppure per un nipote, nel spese diventa macco per un nascondiglio. Cazza, ma tu vuoi vedere che sta rimuendosi con un nipote che aspetta che sta passamento, cazza? Boh, ha tutto peccato la sequela della camera nascosta, cazza. Cazza. E ogni tanto fuggi a bel bagno. No, ma che? Fate. Aspetto, grazie a Nildo, grazie a Nildo. La vignuzza che sta mala. Ma tu chi sa cosa combinando, ragazzi. Ma, vabbè. Lo dici a terra. Fino ai campagna dalle indie, bagazza. Speriamo che abbia comprato i piccicchi, anche l'altra volta. Si era entrato un pezzo di Salaulpu e la vecchia gatta è dovuto andare a un botto soccorso. Il cavallo vediare. Gli apri nella Calabria, gatta, ma tutte le immagini, gatta. Grazie a me, le cuffie buone di Burumi. le cuffie di sviluppati su dai, come ci fate? Avanti, se dovrà entrare dentro la vecchi. E chi chiusa il pu, ma cazzo, se non ci vuole i buffi, come si fa a non entrare? Fai forza, cazzo. Insomma, non cazzo di tutti di una che ci là. Cappa, Giovanni. No, sono cose. Purtroppo sono cose che sono fastidiose. Una voce cappettata a mezz'ora, è stato uno di Babauzzi Marron, presentivi là. E a Marumani, cazzo, è stato perché Babauzzi retta la legge. Beh, ti dico se non ho potuto andare a correre a un corso di sentino alla Guardia Medica che deve mettere le vacche la femmina. Fatti male, fatti male, ma me pure mi è successo l'anno passato. No, ho due anni fa. Cazzo, va via la mascherina e non dagli nemmeno con un spogliatore. Però la maschera non fa via chi su di Ciro Luisi, non fa via la mascherina, però fatta a retina, così che non fa lo prezzo, perché era fatta a retina, però chi si è fatta a retina, li beccarebbe di lei, ma entrava, ne mette entrando un pezzo di filo, di chissà plastica, di polimero, un cespugliatore, un filo 30 lucci. Atta, non potrei sa, cazzo un paio di non potrei sa. Signore anda a un oculista per controllarmi. Cazzo, no, dice non c'è niente, non c'è niente. Tu sta a per il culio, dice, si mette a questo culio, dice stanotte, domani non c'è più niente. Atta invece, abbiamo andato più a chiamare. Anda un altro oculista. Mi incontrò, mi legavo un pezzo di filo di questa cosa da 30 luci. Cazzo, cioè, come ha fatto quello lì? Ci hanno accorto che c'era un pezzo di filo dentro. Ma tu ti immagini, cazzo? Per carità, cazzo, chi si vuole abbigliare con tua voce a pompa? Ma non hanno mai, c'è quello ma capirà tanto che c'è licenza di operare a un paziente che non lo sa manco di buca nei piedi. Ma tu sei stato imbriaco, a chi si dice sempre imbriaco, ma carizzai, cazzo. Dici, lo vantavano, cazzo, come se mai, infatti, Guido me l'ha detto, come mai, se una persona come quello lì non l'ha trovato, è abbastanza chiaro, cazzo. Ah, te mi ha accavato, mi ha fatto vedere il cazzo, perché mi ha detto mi faceva fastidio, e tu dici non fa via niente. E magari era un po' tu ti ha toccato perché se tu dai, però dice non c'era niente, un santo male l'ha fatto. Ti andava a bimare, mi fa via, cazzo. Cazzo, ma non si fa che non ricordo da più da chi su, ma carità, mamma mia, ogni male se l'attacchia. Poi la vedete ucciso male, meglio perderla che acquistarla, ma può fare di sé. La madre aveva fatto più danno di chi si non fa vice. Non si che, infatti la mamma mi l'ha sbigliata quella che stava anche lì là, si pare freddo. Qui se non entra, chi sei caro mio, non passa, invece chi della rottina entrava, lo succio entra male tutto, mentre invece con il santo non entra, sono più tranquillo, capito? E mi ha giubilato lui, certo, ma sono tranquillo, vado sul campo. Che so così riccato, ma così, perché hanno bloccato alla breda, allo blocchetto, mi si fa, si consumano, che si pensa mi sentra proprio dentro all'occhio, ti puoi immaginare, ma certo va via male, cazzo, già me l'ha avuto qui, bello male, cazzo, hanno che ti venga, che dati su questo cazzo non ci fa più niente, che ti venga lì, molto poco. Se non ci sono stati, ti venga di cinque. Ha detto, ma, cazzo, tra di me ha gratuito però, certo, ogni tanto la c'ha più l'uguaccio, ma dai, chi si vede, allora è a gotto, o è ancora mezzo trombito, perché ci ha lavato di vecchia, certo, nata, poi, certo, bobo, e così è, perché, e allora, Più dopo se coincide, Giovanni. Sì, so che c'è chi su malandrino, d'accordo. Va bene.